Grandezza della vita quotidiana. Mi è rimasta impressa, me ne sono servito più volte per la mia orazione, una scena a cui ho assistito molti anni fa percorrendo una strada di Castiglia. Degli uomini conficcavano con forza nel terreno dei pali e vi fissavano la rete che avrebbe delimitato il recinto per il gregge. Poco dopo giunsero sul posto i pastori con le pecore, con gli agnelli. Li chiamavano per nome ed essi ad uno entravano nell'ovile per restare tutti insieme al sicuro. In questo momento, Signore, il mio pensiero si sofferma in modo tutto particolare su quei pastori e su quell'ovile, perché tutti noi che siamo qui e molti altri sparsi per il mondo, per parlare con te, sappiamo di far parte del tuo gregge. Tu stesso l'hai detto, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Tu ci conosci bene. Sai che vogliamo udire, ascoltare sempre con attenzione i tuoi richiami di pastore buono e assecondarli, perché questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Amo tanto l'immagine di Cristo circondato a destra e a sinistra dalle sue pecore, che ne ho fatta collocare una nell'oratorio in cui abitualmente celebro la Santa Messa. E in altri posti ho fatto incidere per risvegliare la presenza di Dio le parole di Gesù. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Affinché in ogni istante consideriamo che Egli ci richiama, ci istruisce e ci dirige come un pastore il suo gregge. È molto appropriato dunque il ricordo di quell'episodio in terra di Castiglia. Dio ci vuole santi. Voi e Dio facciamo parte della famiglia di Cristo perché in Lui Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. La scelta gratuita di cui siamo oggetto da parte del Signore ci indica un fine ben preciso, la santità personale, come San Paolo non si stanca di ripetere. Ec est voluntas Dei, santificatio vestra. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Non dimentichiamolo quindi, siamo nell'ovile del Maestro per raggiungere questa vetta. Il tempo trascorso non mi ha cancellato dalla memoria il ricordo di quando mi recai a pregare nella cattedrale di Valenza e vidi la tomba del venerabile Ridaura. Mi raccontarono allora che quel sacerdote, quando era ormai vecchio, a chi gli domandava quanti anni avesse, rispondeva con convinzione in valenciano: Pochez, pochini, quelli che ho trascorso al servizio di Dio. Per parecchi di voi si possono ancora contare sulle dita di una mano gli anni trascorsi dal momento in cui vi siete decisi ad entrare in rapporto con Dio, a servirlo in mezzo al mondo, nel vostro ambiente e per mezzo della vostra professione e mestiere. Il particolare cronologico non è molto rilevante. È importantissimo invece marchiare a fuoco nella nostra anima la certezza che l'invito alla santità rivolto da Cristo a tutti gli uomini, nessuno escluso, esige che ciascuno coltivi la vita interiore e si eserciti quotidianamente nelle virtù cristiane. E non in un modo qualsiasi, e neppure in un modo fuori del comune o comunque eccellente. Dobbiamo sforzarci fino all'eroismo nel senso più forte e reciso della parola. La meta che vi propongo, o meglio, la meta che Dio indica a tutti noi, non è un miraggio o un ideale irraggiungibile. Potrei portarvi molti esempi di gente dalla strada, come voi, come me, uomini e donne, che hanno incontrato Gesù che passa quasi in occulto, per i crocicchi apparentemente più usuali e si sono decisi a seguirlo, abbracciando con amore la croce di ogni giorno. In questo tempo di sgretolamento generale, di cedimenti e di scoraggiamenti, o di libertinaggio e di anarchia, mi sembra ancor più attuale la semplice e profonda convinzione che agli inizi del mio lavoro sacerdotale è sempre mi ha consumato nel desiderio di comunicarla a tutta l'umanità. Queste crisi mondiali sono crisi di santi. Vita interiore è un'esigenza della chiamata che il Maestro ha acceso nell'anima di tutti. Dobbiamo essere santi, se mi consentite l'espressione, da capo a piedi. cristiani veri, autentici, canonizzabili, altrimenti avremo fallito come discepoli dell'unico Maestro. Badate inoltre che Dio, fissando la sua attenzione su di noi, concedendoci la grazia che ci sostiene nella lotta per giungere alla santità in mezzo al mondo, ci impone anche l'obbligo dell'apostolato. È facile capire che dal punto di vista umano, come fa osservare un padre della Chiesa, la preoccupazione per le anime sgorga come logica conseguenza della chiamata. Se ritenete di avere compiuto qualche progresso, attirate anche altri con voi, nel desiderio di avere compagni sulla via di Dio. Se qualcuno di voi, fratelli, si dirige verso la piazza o i bagni, invita a venire con sé chi vede non intenta ad occupazione alcuna. Mantenete questa vostra umana consuetudine e se vi orientate verso Dio, fate in modo di non giungere soli al suo cospetto. Se non vogliamo sprecare inutilmente il tempo e non valgono le false accuse delle difficoltà dell'ambiente esterno che non sono mai mancate fin dai primi tempi del cristianesimo, dobbiamo tenere ben presente che Cristo in via ordinaria ha vincolato alla vita interiore l'efficacia della nostra azione per attirare chi ci circonda. Come condizione per l'influsso dell'attività apostolica, Cristo ha posto la santità, o meglio il nostro sforzo per essere fedeli, dato che santi, finché siamo sulla terra, non lo saremo. Sembra incredibile, ma Dio e gli uomini hanno bisogno per parte nostra di una fedeltà senza palliativi, senza eufemismi, che giunga alle estreme conseguenze, senza mediocrità e senza compromessi, nella pienezza di una vocazione cristiana assunta e praticata con grande cura. Forse qualcuno di voi sta pensando che io alluda esclusivamente a gruppi scelti di persone. Non lasciatevi ingannare tanto facilmente dalla codardia e dalla comodità. Sentite invece l'urgenza divina che ciascuno di voi sia un altro Cristo, ipse Christus, lo stesso Cristo. In poche parole, l'urgenza che il vostro comportamento si svolga in coerenza alle norme della fede, perché la nostra santità, la santità a cui aspiriamo, non è una santità di seconda categoria che non può esistere. È il primo requisito che ci viene richiesto, in piena conformità alla nostra natura, è l'amore. La carità è il vincolo della perfezione. Carità che dobbiamo mettere in pratica secondo i comandamenti esplicitamente stabiliti dal Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, senza riservare nulla per noi stessi. Questa è la santità. Senza dubbio è un obiettivo elevato e arduo, ma non dimenticate che santi non si nasce. Il santo si forgia nel continuo gioco della grazia divina e della corrispondenza umana. Tutto ciò che si sviluppa, scrive un autore cristiano dei primi secoli, riferendosi all'unione con Dio, agli inizi è piccolo. Alimentandosi gradualmente, con continui progressi, diventa grande. Pertanto ti dico che se vuoi comportarti da cristiano coerente, so che le disposizioni non ti mancano, anche se spesso ti costa vincere o slanciarsi verso l'alto con il tuo povero corpo. Devi mettere con cura una cura estrema nei particolari più minuti, perché la santità che il Signore esige da te si ottiene compiendo con amore di Dio il lavoro, i doveri di ogni giorno, che quasi sempre sono un tessuto di cose piccole. Piccole cose e vita d'infanzia. Pensando a quelli di voi che mentre gli anni passano ancora sognano, sogni vani, puerili come quelli di Tartarino di Tarascona, di dare la caccia ai leoni nei corridoi di casa, dove al massimo si può trovare un topolino o poco altro. Pensando a costoro, ripeto, vi ricordo che la grandezza consiste nel sostenere in modo divino il compimento fedele dei doveri abituali di ogni giorno, le lotte quotidiane che riempiono di gioia il Signore e che soltanto Lui e ciascuno di noi conosciamo. Convincetevi che, d'ordinario, non ci si è posto per gesti abbaglianti, fra l'altro perché non ne avrete l'occasione. Invece non vi mancano le occasioni per dimostrare nelle cose piccole, normali, il vostro amore a Cristo. Anche nelle piccole cose, commenta San Gerolamo, si dimostra la grandezza d'animo. Il creatore effettivamente non lo ammiriamo soltanto in considerazione del cielo e della terra, del sole e dell'oceano, degli elefanti, dei cammelli, dei cavalli, dei buoi e leopardi, orsi e leoni, ma anche degli animali più piccoli come le formiche, le zanzare, le mosche, i vermiciattoli e insetti del genere che noi conosciamo più di vista che di nome. E in ognuno di questi esseri noi veneriamo un'identica ingegnosità divina. Così un'anima votata a Cristo porta la sua attenzione senza differenza tanto alle cose grandi quanto alle cose piccole. Nel meditare queste parole di Cristo, Pro eis ego sanctificum me ipsum, ut sint ed ipsi sanctificati in veritate. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità, percepiamo con chiarezza il nostro unico fine. La santificazione, cioè il dovere di essere santi per santificare. Nel contempo, come una sottile tentazione, può venirci in mente che solo in pochi siamo decisi a rispondere alla chiamata divina. E per di più ci riconosciamo strumenti con ben scarse attitudini. È vero, siamo in pochi in confronto al resto dell'umanità e personalmente non valiamo nulla, ma l'affermazione del Maestro risuona con tutta la sua autorità. Il cristiano è luce, sale, lievito del mondo e un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Proprio per questo ho sempre predicato che ci interessano tutte le anime, 100 su 100, senza discriminazione alcuna, con la certezza che Cristo ci ha redenti tutti e vuole servirsi noi pochi, nonostante la nostra personale unità, per diffondere la salvezza. Un discepolo di Cristo non tratterà mai male nessuno. Chiamerà l'errore errore, ma correggerà con affetto chi sta sbagliando, altrimenti non potrà aiutare, non potrà santificare. Bisogna saper vivere con gli altri, bisogna capire, bisogna scusare, bisogna esercitare la fraternità. E secondo il consiglio di San Giovanni della Croce, in ogni istante bisogna mettere amore dove non c'è amore, per accogliere amore. Anche nelle circostanze apparentemente insignificanti offerte dal lavoro professionale e dalle relazioni familiari e sociali. Pertanto, tu ed io metteremo a frutto anche le occasioni più banali che ci si presentano per santificarle, per santificarci e per santificare coloro che condividono i nostri stessi impegni quotidiani, sentendo nella nostra vita il peso dolce e attraente della corredenzione. Voglio continuare questa conversazione nella presenza del Signore utilizzando una notazione raccolta anni addietro e tuttora attualissima. Mi ero trascritto questa considerazione di Santa Teresa d'Avila. Niente e meno di niente è tutto ciò che passa e non è a gloria di Dio. Capite dunque perché l'anima non ritrova il sapore della pace e della serenità quando si allontana dal suo fine, quando dimentica che Dio l'ha creata per la santità? Sforzatevi di non perdere mai il punto di vista soprannaturale, neppure nei momenti di riposo e di distensione necessari quanto il lavoro alla vita di ciascuno. Potete arrivare al vertice della vostra professione, potete ottenere i trionfi più clamorosi come frutto della vostra liberissima iniziativa nelle attività temporali. Ma se perdete il senso soprannaturale che deve presiedere ogni nostra occupazione umana, avete deplorevolmente sbagliato strada. Consentitemi una breve digressione che viene a puntino. Non ho mai chiesto a nessuno di coloro che mi sono venuti vicino che cosa pensasse in materia politica. Non me ne importa. Vi manifesto con questa mia regola di condotta una realtà profondamente innestata nel cuore dell'Opus Dei, a cui, con la grazia e la misericordia di Dio, mi sono dedicato pienamente per servire la Santa Chiesa. L'argomento non mi interessa perché, in quanto cristiani, voi godete la più completa libertà, con la conseguente responsabilità personale, per intervenire come più vi piaccia nelle questioni di carattere politico, sociale, culturale, eccetera, senza altri limiti oltre quelli indicati dal Magistero della Chiesa. Mi preoccuperei, per il bene delle vostre anime, unicamente nel caso in cui oltrepassaste tali confini, perché a quel punto avreste creato una netta opposizione fra la fede che affermate di professare e le vostre opere, e ve lo farei notare con chiarezza. Questo sacrosanto rispetto delle vostre scelte, purché non vi allontanino dalla legge di Dio, non è capito da coloro che ignorano il vero concetto della libertà che Cristo ci ha guadagnato sulla croce. Qua libertate Christus nos liberavit. Dalle persone faziose di ogni colore e provenienza, da coloro che pretendono di imporre come dogmi le loro opinioni temporali o che degradano l'uomo negando il valore della fede lasciata in balia degli errori più crassi. Ma riprendiamo il filo del discorso. Vi stavo dicendo che potete pur ottenere i successi più spettacolari in campo sociale, nella vita pubblica, nella professione, ma se trascurate la vostra vita interiore e vi allontanate dal Signore, avrete fallito clamorosamente. Al cospetto di Dio, e questo in definitiva è ciò che conta, è vittorioso colui che lotta per comportarsi da cristiano autentico. Non ci può essere una soluzione intermedia. Per questo conoscete persone che, giudicando umanamente la loro situazione, dovrebbero essere molto felici e invece trascinano un'esistenza inquieta, amara. Sembra che vendano allegria a profusione, ma appena si gratta la loro anima, affiora un gusto aspro, più amaro del fiele. Questo non capiterà a nessuno di noi se davvero cerchiamo di compiere in ogni momento la volontà di Dio e di rendergli gloria, di lodarlo e di estendere il suo regno a tutte le creature. Una vita cristiana coerente. Soffro molto al pensiero di cattolici, figli di Dio, che attraverso il battesimo sono singolarmente chiamati ad essere un altro Cristo, i quali tranquillizzano la loro coscienza con una vita di pietà meramente formalistica, con una religiosità che li induce a pregare solo di quando in quando e soltanto se pensano di trarne vantaggio. A assistere alla Santa Messa nei giorni di precetto, e neppure in tutti, mentre puntualmente curano la tranquillità del loro stomaco con pasti ad ore fisse, a cedere nella fede, a barattarla con un piatto di lenticchie pur di non rinunciare alla loro posizione. E poi sfacciatamente e scandalosamente utilizzano l'etichetta di cristiani per raggiungere i primi posti. No, non accontentiamoci delle etichette. Voglio che siate cristiani dalla testa ai piedi, tutti di un pezzo, e per esserlo dovete cercare senza concessioni l'alimento spirituale adeguato. Per esperienza personale sapete bene, e me lo avete sentito ripetere spesso per prevenire scoraggiamenti, che la vita interiore consiste nel cominciare e ricominciare ogni giorno. E nel vostro cuore sentite, come lo sento io, che dobbiamo lottare incessantemente. Nel vostro esame di coscienza avete notato, succede anche a me, scusate questi riferimenti personali, ma mentre vi parlo faccio col Signore un ripasso dei bisogni della mia anima, che subite ripetutamente delle piccole sconfitte e talvolta vi viene da pensare che esulano dal comune, perché denotano un'evidente mancanza di amore, di impegno, di spirito di sacrificio e di delicatezza. Alimentate i desideri di riparazione con un sincero spirito di contrizione, ma, ve lo chiedo, non perdete la pace. All'inizio degli anni 40 mi recavo spesso a Valenza. Non avevo alcun mezzo umano con coloro che, come voi ora, si riunivano col povero sacerdote che vi parla, facevo orazione ovunque si potesse, qualche sera sulla spiaggia deserta. Come i primi amici del Maestro, ricordi? San Luca scrive che alla partenza da Tiro, diretti con Paolo a Gerusalemme, tutti ci accompagnarono con le mogli e i figli fin fuori la città e inginocchiati sulla spiaggia pregammo. Un giorno, a sera inoltrata, durante un meraviglioso tramonto valenziano, vedemmo avvicinarsi una barca alla riva. Ne balzarono fuori degli uomini bruni, forti come rocce, bagnati a torso nudo, bruciati dal vento da sembrare di bronzo. Incominciarono a tirare fuori dall'acqua la rete tesa in mare dalla barca per la pesca a strascico. Era piena di pesci lucenti, d'argento. Tiravano vivacemente, affondando i piedi nella sabbia con sorprendente energia. D'improvviso sopraggiunse un bimbo, anche lui abbronzato. Si avvicinò alla corda, l'afferrò con le sue manine e incominciò a tirare con evidente imperizia. Quei pescatori rudi, pensate, per nulla raffinati, certamente si sentirono intenerire il cuore e consentirono al bambino di collaborare. Non lo allontanarono, anche se più volte era d'intralcio. Pensai a voi e a me, a voi che ancora non conoscevo e a me, a questo nostro tirare le reti tutti i giorni in tanti aspetti. Se ci presentiamo davanti a Dio nostro Signore come quel bambino, convinti della nostra debolezza, ma disposti ad assecondare i suoi progetti, raggiungeremo la meta più facilmente. Porteremo a riva la rete piena di frutti abbondanti, perché dove le nostre forze vengono meno, interviene la potenza di Dio. Sincerità nella direzione spirituale. Conoscete a menadito gli obblighi del vostro cammino di cristiani, che vi condurranno senza sosta e con calma alla santità. Siete anche premuniti contro le difficoltà, contro tutte le difficoltà, che si intuiscono fin dai primi passi della strada. Adesso insisto sull'esigenza di farvi aiutare, guidare da un direttore di coscienza al quale confidare tutte le vostre sante aspirazioni e i problemi quotidiani che riguardano la vostra vita interiore, le sconfitte che potete incontrare e le vittorie. Nella direzione spirituale siate sempre molto sinceri, non permettetevi di tacere qualcosa, aprite completamente la vostra anima, senza paura e senza vergogna. Guardate che, in caso contrario, questo cammino tanto agevole e accessibile si aggroviglia e ciò che all'inizio non era niente finisce per diventare un nodo soffocante. Quando uno cade non si tratta mai di una disgrazia improvvisa, i casi sono due: o una formazione difettosa sin dalle origini lo ha messo per una via sbagliata, oppure una prolungata negligenza ha indebolito a poco la sua virtù e fatto crescere i vizi. Quella dolorosa caduta è l'effetto di uno di questi stati. Una casa non crolla mai all'improvviso. Sarà un difetto del fondamento tanto antico quanto la costruzione. Sarà la trascuratezza degli abitanti che ha lasciato penetrare l'acqua goccia a goccia finché questa ha fatto marcire le travi del tetto e poi, col progredire del tempo, ha formato aperture più grandi e incrinature più pericolose. Ricordate la sorella dello zingaro che andò a confessarsi? È solo una storiella, una barzelletta, perché delle confessioni vere non si parla mai. E poi anche perché ho molta stima per gli zingari. Poveretto, era veramente pentito. Signor curato, mi accuso di aver rubato una cavezza. Niente di grave, vero? Dietro c'era attaccato un mulo, e dietro un'altra cavezza e un altro mulo. E così via, fino a 20. Figli miei, la stessa cosa può capitare anche a voi. Ci concediamo la cavezza e dietro viene il resto, una carovana di cattive inclinazioni, di miserie che immeschiniscono e fanno arrossire. E la stessa cosa avviene nei rapporti con gli altri. Si comincia con un piccolo sgarbo, si finisce per voltare le spalle al prossimo nella più gelida insofferenza. Prendeteci le volpi piccoline che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Fedeli nelle piccole cose, molto fedeli nelle piccole cose. Se applichiamo questo sforzo, impareremo anche ad accorrere con fiducia nelle braccia della Madonna. Siamo suoi figli. Non vi ho già detto che di anni ne abbiamo pochissimi, solo quelli trascorsi da quando abbiamo deciso di entrare in intimo rapporto con Dio? È logico che la nostra miseria, la nostra pochezza cerchino riparo nella grandezza e nella santa purità della Madre di Dio, che è anche Madre nostra. Vi posso raccontare un altro aneddoto, questa volta reale. Ve lo posso raccontare perché sono trascorsi molti, moltissimi anni da quando è accaduto e perché può darvi materia di riflessione per la schiettezza popolaresca delle espressioni. Stavo dirigendo un ritiro spirituale per sacerdoti di varie diocesi. Li avvicinavo io stesso con affetto e con interesse perché parlassero e sfogassero la loro coscienza, perché anche noi sacerdoti abbiamo bisogno del consiglio e dell'aiuto di un fratello. Incominciai a parlare con uno di loro, un po' rozzo, ma di animo nobile e sincero. Lo stuzzicavo un po', delicatamente ma con chiarezza, perché parlasse, pronto a stagnare le ferite che ci potessero essere là dentro, nel suo cuore. A un certo punto mi interruppe più o meno con queste parole. Invidio molto il mio asino. Ha prestato servizi parrocchiali in 7 circoscrizioni e sul suo conto non c'è niente da dire. Magari avessi fatto altrettanto. Forse, esamita nel fondo, neppure noi meritiamo la lode che quel parroco di campagna rivolgeva al suo asino. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo occupato certi posti di responsabilità, hai avuto successo in varie attività umane, ma alla presenza di Dio non c'è proprio nulla di cui ti debba lamentare. Hai davvero cercato di servire Dio e gli uomini tuoi fratelli o hai fomentato il tuo egoismo, la tua gloria personale, le tue ambizioni, il tuo successo esclusivamente umano e penosamente caduco? Se vi parlo così apertamente è perché io per primo voglio rinnovare con un atto sincero di contrizione, perché vorrei che anche ciascuno di voi domandasse perdono. Nel considerare le nostre infedeltà, i tanti errori, le debolezze, le viltà, ciascuno alle sue, ripetiamo di tutto cuore al Signore l'esclamazione del pentimento di Pietro. Domine, tu omnia nosti, tu scisqui amo te. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo, nonostante le mie miserie. E oso aggiungere, tu sai che ti amo proprio per le mie miserie, perché mi inducono ad appoggiarmi a te che sei la fortezza. Via tu es Deus, fortitudo mea. Questo è il punto da cui ricominciare. Cercare la presenza di Dio. Vita interiore. Santità nelle occupazioni abituali. Santità nelle piccole cose. Santità nel lavoro professionale, nei doveri quotidiani. Santità per santificare gli altri. Un mio conoscente, non ho ancora finito di conoscerlo, una volta ha sognato di volare a grande altezza con un aereo, ma non all'interno, nella carlinga. Si trovava sulle ali. Poveretto, che sofferenza e che angoscia. Forse il Signore voleva fargli capire che quello è il modo, pieno di imprevisti e di rischiosi scossoni, in cui vanno per le altezze divine le anime con ambizioni apostoliche, ma che mancano di vita interiore o la trascurano. In continuo pericolo di precipitare, soffrendo, insicuri. E penso effettivamente che rischiano seriamente di smarrire la via coloro che si lanciano nell'azione, nell'attivismo, prescindendo dall'orazione, dallo spirito di sacrificio e dai mezzi indispensabili per ottenere una solida vita di pietà. La frequenza dei sacramenti, la meditazione, l'esame di coscienza, la lettura spirituale, un assiduo rapporto con la Vergine, con gli angeli custodi, tutte queste cose, d'altronde, contribuiscono con insostituibile efficacia a rendere piacevole la giornata del cristiano, perché dalla sua ricchezza interiore stilano dolcezza e felicità divine, come il miele del fava. Nell'intimità personale, nel comportamento esterno, nel rapporto con gli altri, nel lavoro, tutti devono riuscire a mantenersi continuamente alla presenza di Dio in un colloquio, un dialogo, che non si manifesta esternamente, o meglio, che normalmente non si esprime con suono di parole, ma si deve notare dall'impegno e dall'affettuosa diligenza che mettiamo nel portare bene a termine i nostri compiti, importanti o minuti che siano. Se non ci comportassimo con questa applicazione, saremmo poco coerenti alla nostra condizione di figli di Dio, perché avremmo sprecato le risorse che il Signore ci ha messo provvidenzialmente accanto per raggiungere lo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Durante la guerra civile spagnola facevo frequenti viaggi per dedicarmi sacerdotalmente ai molti giovani che si trovavano al fronte. In una trincea ho ascoltato un dialogo che mi è rimasto molto impresso. Vicino a Teruel, un giovane soldato diceva di un altro, a quanto pare indeciso, pusillanime. Quello non è un uomo tutto d'un pezzo. Mi dispiacerebbe moltissimo che di taluni di noi si potesse legittimamente affermare che sono incoerenti. Persone che assicurano di voler essere cristiani autentici, santi, ma che trascurano i mezzi perché nel compiere i loro doveri non esprimono continuamente a Dio il loro affetto e il loro amore filiale. Se questo fosse il nostro modo di comportarci, neppure tu ed io saremmo cristiani tutti d'un pezzo. Cerchiamo di alimentare in fondo al nostro cuore un desiderio ardente, una gran voglia di raggiungere la santità, anche se ci vediamo pieni di miserie. Non spaventatevi. Quanto più si procede nella vita interiore, tanto più chiaramente ci si accorge dei difetti personali. L'aiuto della grazia diventa come una specie di lente di ingrandimento, per cui la più piccola inezia di fango, il granello di polvere quasi impercettibile, risaltano in dimensioni gigantesche, perché l'anima acquisisce una finezza divina e così anche la più piccola ombra disturba la coscienza che apprezza soltanto il lindore di Dio. Ripeti con me dal fondo del cuore. Signore, voglio davvero essere santo, voglio davvero essere un tuo degno discepolo e seguirti incondizionatamente. E subito farai il proposito di rinnovare quotidianamente i grandi ideali da cui in questo momento ti senti animato. Gesù, se tutti noi riuniti nel tuo amore fossero perseveranti, se riuscissimo a tradurre in opera gli slanci che tu stesso accendi nei nostri cuori, domandatevi molto spesso perché sono su questa terra. E in questo modo ottenete di portare a perfetto compimento, pieno di carità, gli impegni giornalmente intrapresi e la cura delle piccole cose. Faremo tesoro dell'esempio dei santi, persone come noi, di carne e ossa, con fragilità e debolezze che seppero appena vincere e vincersi per amore di Dio. Considereremo il loro comportamento. E come le api che estraggono da ogni fiore il nettare migliore, metteremo a frutto il loro modo di lottare. Voi e io impareremo anche a scoprire tante virtù in quanti ci circondano. Ci danno lezioni di lavoro, di abnegazione, di allegria e non indugeremo troppo sui loro difetti, soltanto lo stretto imprescindibile per poterli aiutare con la correzione fraterna. Nella barca di Cristo. Anche a me, come al Signore, piace molto parlare di barche e di reti, per far sì che tutti ricaviamo dalle scene evangeliche propositi fermi e ben precisi. San Luca ci racconta di certi pescatori che lavavano e rammendavano le reti lungo le rive del lago di Genezaret. Gesù si avvicina alle barche attraccate lungo la riva ed entra in una di esse, quella di Simone. Con quanta naturalezza il Maestro entra nella barca di ciascuno di noi, per complicarci la vita, come si sente commentare in tono di lamento. Il Signore ha incontrato voi e me sulla stessa strada, per complicarci l'esistenza delicatamente e amorosamente. Dopo aver predicato dalla barca di Pietro, si rivolge ai pescatori. Duc in altum, exater rezia vestra in capturam. Prendete il largo e gettate le reti. Fiduciosi nella parola di Cristo, obbediscono e ottengono quella pesca prodigiosa e guardando Pietro come Giacomo e Giovanni non riusciva a capacitarsi. Il Signore spiega, non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. La tua barca, i tuoi talenti, le tue aspirazioni, i tuoi successi, non vale niente se non la metti a disposizione di Gesù Cristo, se non lasci che Egli vi salga dentro liberamente e se la trasformi in un idolo. Tu da solo con la tua barca, se fai a meno del Maestro soprannaturale, parlando, viaggi dritto al naufragio. Soltanto se accetti, se cerchi la presenza e la guida del Signore, sarai al riparo dalle tempeste e dai frangenti della vita. Metti tutto nelle mani di Dio. I tuoi pensieri, le belle avventure della tua fantasia, le tue nobili ambizioni umane, i tuoi amori puliti devono passare per il cuore di Cristo, altrimenti presto o tardi colleranno a picco col tuo egoismo. Se accetti che Dio comandi sulla tua barca, che sia Lui il padrone, che sicurezza. Anche quando sembra assente, quando sembra addormentato, quando sembra non darsi pensiero, mentre si leva la tempesta nelle tenebre più fitte. San Marco racconta che gli apostoli ebbero a trovarsi in circostanze simili e Gesù, vedendoli tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l'ultima parte della notte andò verso di loro, camminando sul mare. Coraggio, sono io, non temete. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Figli miei, succedono tante cose sulla terra. Potrei dirvi delle pene, delle sofferenze, dei maltrattamenti, del martirio, non sto esagerando, dell'eroismo di tante anime. Davanti ai nostri occhi, nella nostra mente, talvolta prende corpo l'impressione che Gesù dorma, che non ci stia a sentire, ma San Luca racconta come Gesù si comporta con i suoi amici. Ora, mentre i discepoli navigavano, egli si addormentò. Un turbine di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Accostatisi a lui lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!» E lui, destato, si sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e si fece bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede? Se noi ci diamo, egli ci si dà. Bisogna avere piena fiducia nel Maestro, abbandonarsi nelle sue mani senza lesinare, dimostrargli con le opere che la barca è sua, che vogliamo che egli disponga a suo piacimento di tutto ciò che ci appartiene». Concludo ricorrendo all'intercessione della Madonna con questi propositi: vivere di fede, perseverare nella speranza, restare uniti a Cristo, amarlo davvero, davvero, davvero, perseguire e gustare la nostra avventura d'amore perché siamo innamorati di Dio, lasciare che Cristo entri nella nostra povera barca e prenda possesso della nostra anima come Signore e Padrone, dimostrargli sinceramente che ci sforziamo di mantenerci sempre alla sua presenza giorno e notte perché Egli ci ha chiamati alla fede. Ecce ego qui avocasti me, e veniamo nel suo ovile, attratti dai suoi richiami di buon pastore, con la certezza che soltanto sotto la sua ombra troveremo la vera felicità temporale e sempiterna.